9 in punto. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. 9 in punto, oggi parliamo di carceri. Parliamo di carceri e giustizia. La situazione nel nostro paese è stata messa in rilievo nei giorni scorsi, è stata messa in rilievo anche dallo stesso ministro della giustizia, Francesco Nitto Paola, che dovremmo avere tra poco in linea, anzi dovremmo avere in linea. Buongiorno ministro. Non c'è ancora. Il ministro ha visitato nei giorni scorsi le carceri di Roma. La situazione delle carceri è particolarmente pesante. Sono 67.000 detenuti presenti, con una capacità teorica dei penitenziari che è molto molto inferiore. Oltre il 41% di questi detenuti sono in attesa di giudizio. In questi penitenziari sono 206 penitenziari italiani, ma molti di questi sono obsoleti ed è difficile garantire in queste carceri delle situazioni di civiltà, di normale civiltà, e soprattutto tendere a quello che dice la Costituzione, cioè fare della carcerazione, della detenzione, uno strumento di rieducazione, di reinserimento nella vita sociale. Vediamo se è in linea il ministro Nitto Paola. Buongiorno. Il ministro non c'è. Ancora un attimo, abbiamo altri ospiti che ci aiuteranno in questo confronto sul tema delle carceri, mentre ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 0024 per le vostre chiamate e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Saluto innanzitutto Maurizio Tortorella. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Vice direttore di Panorama e autore del libro L'agonia, come i processi mediatici e di piazza hanno ucciso il garantismo in Italia. Diciamo un altro volto della giustizia. Beh, purtroppo il volto italiano della giustizia. Il libro L'agonia racconta 7 storie, ma che sono storie recenti e importanti, attraverso le quali appunto si descrive come i giornali, le televisioni raccontano i procedimenti penali avviati in questo paese, ma racconta soprattutto come nasce e da dove nasce il fenomeno del processo mediatico, cioè del processo gogna, che è teso esclusivamente a dimostrare la parte dell'accusa e non dà alcuna voce alla difesa dell'indagato o dell'imputato. Ecco, ci sono molti casi che sono raccontati in questo libro: Alfredo Romeo, Ottaviano Del Turco, Guido Bertolaso, lo stesso Silvio Berlusconi, Silvio Scaria, casi in cui c'è stata una carcerazione preventiva, casi in cui non c'è stata una carcerazione, ma c'è stata comunque un'accusa che si è svolta soprattutto a livello mediatico. Quindi diciamo che i giudici in questo senso sono andati un po' al di là, hanno cercato di svolgere un processo parallelo? Ma più che i giudici, direi che sono stati i miei colleghi, i nostri colleghi giornalisti, cioè i giornali, quelli che appunto raccontano la giustizia, perché è sui giornali che si svolge il procedimento ormai, il processo è lì, non ci sono più le regole di un tempo, le regole che facevano sì che anche il processo, per esempio, laddove appunto l'indagato veniva rinviato a giudizio, poi il processo appunto fosse seguito attentamente dai giornali. Qui si dà attenzione esclusivamente alla prima parte del procedimento, cioè all'indagine preliminare, tutto il resto poi non conta. Quindi un tema diciamo parallelo al fatto di una giustizia certa, una giustizia che deve essere effettiva, la certezza del diritto, che deve essere anche rapida nella sua esecuzione. Saluto il ministro Francesco Nitto Paola. Buongiorno ministro. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie della sua disponibilità. Il tema delle carceri è in primo piano, lei stesso lo ricordavo prima, ha visitato le carceri romane nel giorno di Ferragosto. Qual è il suo giudizio sulla situazione attuale e che cosa si può fare per affrontarla? Guardi, il mio giudizio è di una situazione che necessita di una soluzione in tempi rapidi e urgenti. Ancora siamo all'interno della forbice di compatibilità logistica, ci stiamo ahimè avvicinando rapidamente all'intervento. Quindi dovrà fare degli interventi, alcuni dovranno necessariamente riguardare i condannati con sentenza passata in giudicato e altri, previa interlocuzione con la magistratura, dovranno riguardare talune modifiche del codice di procedura penale che consentano, come dire, che il cosiddetto effetto porta girevole all'interno del carcere possa essere in qualche modo diminuito. Mi riferisco a tutti quei detenuti che rimangono in carcere dalle 48 ore ai 10 giorni e che oggettivamente, ove fossero ristretti presso le loro abitazioni, andrebbero creare un oggettivo giovamento rispetto all'attuale situazione carceraria. Ecco, ma che cosa osta, diciamo, a questa possibilità? Il fatto che c'è una mancanza di sorveglianza da parte della polizia giudiziaria o della polizia tout court? C'è una mancanza dal punto di vista legislativo? C'è una... Comprendo la domanda, ma io direi che dobbiamo partire da quanto ha affermato il primo presidente della Corte di Cassazione nel convegno tenutosi qualche giorno fa al Senato. Il primo presidente della Corte di Cassazione ha affermato che vi è forse un eccesso della custodia cautelare, e mi pare che sulla stessa linea si sia posizionato il Presidente della Repubblica. E allora, ferme restare le esigenze di salvaguardia, ci si chiede se i detenuti che devono restare in carcere cautelare dalle 8 ore ai 10 giorni, così necessaria la loro breve permanenza in carcere, ovvero se questa permanenza in carcere possa essere sostituita da una permanenza di tipo domiciliare, permanenza domiciliare che loro raggiungono dopo 10 giorni. Tutto questo in termini numeri comporterebbe ogni 3 mesi un incremento di circa 10-12 mila unità di presenza all'interno del carcere. Ecco, questo è sicuramente un'ipotesi. Intanto cerchiamo magari di ripristinare una linea telefonica migliore con il ministro Nitto Paola. Misure quindi più rapide per facilitare appunto gli arresti domiciliari. Saluto il senatore Luigi Manconi. Buongiorno professor Manconi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Fondatore e presidente della Signora Buon Diritto, ex sottosegretario alla giustizia, autore tra gli altri del libro appena uscito Quando hanno aperto la cella, che racconta i casi più drammatici, peraltro anche di suicidi o di morti all'interno del carcere. Dottor Manconi, la situazione è veramente pesante? Sì, è veramente pesante, è una situazione di emergenza che ha superato da tempo la soglia della tollerabilità, ed è per questo che in presenza di uno stato di eccezione sarebbe necessaria una misura di eccezione, quale è appunto l'amnistia, una misura che evidentemente è diversa dalle riforme di sistema necessarie, ma che nella fase attuale avrebbe il compito e l'effetto di introdurre un minimo di normalità e legalità all'interno di un sistema della giustizia e di un sistema dell'esecuzione della pena che è diventato febbricitante. Se questa febbre non viene calmata, cioè se non si torna a uno stato di in qualche misura normalità, nemmeno quelle riforme di sistema, che sono appunto le uniche capaci sui tempi lunghi di davvero modificare la situazione dell'esecuzione della pena in Italia, nemmeno queste ultime possono essere adottate. Io ho sentito le ultime parole del ministro, quelle relative a una condizione davvero grottesca. All'interno della popolazione detenuta, quella quota che indicava il ministro, cioè coloro che stanno all'interno del carcere per un periodo di tempo che varia dalle 48 ore ai 10 giorni, è arrivato a rappresentare quasi il 40% dell'intero flusso di detenuti che nel corso di un anno entrano nel sistema penitenziario italiano. Allora, lei chiedeva giustamente, ma cosa impedisce di adottare quella misura, cioè gli arresti domiciliari per queste persone? Davvero io non so che cosa osti, se non appunto la necessità di alimentare questa condizione di permanente allarme sociale, per cui qualunque misura efficace e intelligente viene differita o semplicemente non viene adottata perché si teme la reazione dell'opinione pubblica, la stessa opinione pubblica di cui però si alimenta l'inquietudine e l'ansia diffondendo messaggi che non corrispondono al vero. Voglio precisare, perché coincide con quanto il ministro diceva, che la percentuale di persone che violano le regole sugli arresti domiciliari e sulla detenzione domiciliare è una percentuale irrisoria che supera appena l'1%. Dunque il risultato dell'adozione di misure differenti dalla detenzione in cella sono davanti agli occhi di tutti, è un risultato altamente positivo, cioè si recidiva meno, si reitera il reato meno, si violano le regole e le norme meno quando si è in una condizione diversa da quella della reclusione in cella. Ecco, in questa prospettiva indubbiamente dare la fiducia anche alle persone è già un passo nella loro rieducazione, ma vorrei tornare sulla proposta dell'amnistia. Concretamente, realisticamente, senatore Manconi, pensa che ci sia lo spazio politico per approvare un'amnistia che peraltro è anche un elemento che suscita un po' di allarme sociale? Non c'è il minimo dubbio che suscita allarme sociale. Intanto, chissà perché nessuno ricorda che si tratta di un provvedimento previsto dalla nostra Costituzione, quindi non è una bizzarria, un'eccentricità, una sorta di anomalia dell'ordinamento, è una misura prevista. Secondo punto, suscita allarme sociale, certamente, ma perché? Perché la classe politica non si è dimostrata capace di fornire informazioni adeguate. Faccio un solo esempio. L'amnistia viene giustamente accostata all'indulto. L'ultimo indulto che è stato promulgato in Italia è quello del 2006. Fu una misura approvata dall'oltre 80% dei parlamentari che a distanza di 24 ore ripudiarono questo loro gesto. In sostanza se la diedero a gambe e disconobbero il loro figlio, cioè quell'indulto. E perché non lo riconobbero come una misura necessaria? Perché appunto non riuscirono ad affrontare un'opinione pubblica che, lo dico con profonda convinzione sulla base di dati scientifici, subì dei processi di manipolazione. Mi spiego con due dati soltanto a mio avviso inequivocabili. Quell'indulto che nel senso comune e nell'opinione pubblica dominante viene considerata un'autentica iattura ha registrato un tasso di recidiva del 33.9%. 33.9, cioè il 34%, ma il 34% della recidiva tra i beneficiari dell'indulto corrisponde esattamente alla metà, anzi a un po' meno della metà, della recidiva ordinaria tra coloro che scontano regolarmente e interamente la loro pena all'interno di una cella ed escono senza alcun condono, sconto e beneficio. Secondo dato che voglio ricordare, anch'esso ha la sua importanza per valutare quali sono gli orientamenti della pubblica opinione. Quando fu approvato l'indulto, ricordo fine luglio del 2006, noi assistiamo a uno straordinario spettacolo dell'informazione televisiva nazionale, cioè del complesso del flusso di informazione emesso dalle televisioni a livello nazionale, fino al 2005 la quota dedicata a notizie di cronaca nera e di fatti criminali era dell'11%, teniamo conto, 11% fino al 2005. A partire dal 2006 e per il 2007 questa quota di di informazione delle televisioni nazionali nel loro complesso dedicate a fatti di cronaca e a notizie criminali passa dall'11% al 23%. Mi sembra chiara l'osservazione. C'è stata una componente mediatica, quella di cui si parlava peraltro anche con Maurizio Tortorella, sul fronte di una giustizia mediatica e di un condizionamento dell'opinione pubblica. Però abbiamo ritrovato il telefono Francesco Nitto Palma, ministro della giustizia. Penso che abbia seguito quest'ultima parte dell'intervento del senatore Manconi. Ministro, lei ha escluso fin dall'inizio un'eventuale amnistia o un indulto. Come mai pensa che questa ipotesi non possa essere praticabile, ministro Nitto Palma? Ma guardi, io faccio, mi scuso prima di tutto con l'onorevole Manconi perché ho ascoltato il suo intervento, come dire, in maniera molto frammentaria. E per quello che mi riguarda, il mio ragionamento è completamente diverso. Dubito fortemente che vi sia un consenso politico per l'amnistia e per l'indulto. E in ogni caso l'amnistia ha, oltre che evidentemente avere un effetto indotto sulle presenze carcerarie, è uno strumento di non ingolfamento dei carichi dibattimentali, l'indulto invece è una misura secca di deflazione carceraria. Il senatore Manconi ha ricordato con precisione i dati del 2006 e questi dati vorrei aggiungere che nello spazio di 2 anni e mezzo la popolazione carceraria, che nel 2006 si era ridotta da 61.000 unità a 39.000 unità, è ritornata, ahimè, al tetto delle 60.000 unità. Correttamente diceva l'onorevole Manconi prima, probabilmente sia nell'ultimo indulto e sia anche nel passato per tutti i provvedimenti di amnistia e indulto che prima viaggiavano accoppiati, Non si è approfittato del momento favorevole data dalla deflazione carceraria per mettere in atto quelle misure che potevano portare a sistema l'intervento sul carcere. Sotto questo profilo quindi io continuo a manifestare la mia contrarietà sia all'amnistia che all'indulto. Con riferimento invece alla situazione attuale mi permetto di ricordare che nel 2010 è stata votata una legge che si chiama svuota carceri, che consentiva senza limiti di recidiva o non recidiva, salvo un particolare tipo di recidiva, la uscita dal carcere con un anno di anticipo l'andare del detenuto verso la detenzione domiciliare. Questa legge ha avuto in fase sperimentale degli effetti eccezionali. Se consideriamo che delle 3.001 persone che sono uscite in ragione di questa legge, nessuno è evaso. Quindi mi pare che sul piano, diciamo, dell'emergenza forse si dovrebbe ragionare se ampliare il termine che consente la detenzione domiciliare, nel senso invece che l'ultimo anno di pena, 1 anno e 6 o 2 anni, ma questo dipenderà dal consenso politico. Dopodiché continuo a dire quello che ho affermato prima, non so se è stato trasmesso, la popolazione carceraria per un buon 40% è costituita da detenuti in attesa di giudizio. Grosso modo siamo all'incirca su 22-23.000 persone. Di queste 22-23.000 persone il 50%, e quindi siamo 10-12.000 persone, restano in carcere dalle 48 ore ai 10 giorni. La domanda che io ai 30 giorni, la domanda che io formulo e mi formulo e formulo è se, atteso il ristretto periodo di restrizione carceraria, ferme restando le esigenze di cautela del processo, se non sia il caso di andare verso una strada della detenzione domiciliare nella fase dell'arresto in flagranza e nelle fasi immediatamente successive, invece di considerare, come ahimè purtroppo accade, la restrizione in carcere come l'unica soluzione. Ciò in contrasto con quello che dice il codice e in sintonia con la critica molto seria che il primo presidente della Corte di Cassazione ha formulato sul punto specifico al convegno dei radicali che si è tenuto al Senato. Ecco, in questa prospettiva indubbiamente ci possono essere delle misure concrete. Io saluto Donatella Stasio, giornalista del Sole 24 Ore, che segue i temi della giustizia. Buongiorno Donatella. Buongiorno. E vorrei che fossi tu, Donatella, a fare una domanda, a replicare al Ministro su questo punto: che cosa si può fare nel concreto, che cosa è possibile fare al di là appunto dell'osservazione molto realistica del problema. Donatella Stasio. Sì, ma il ministro parlava di, come dire, focalizzava in qualche modo l'attenzione anche sull'eccesso di ricorso alla custodia cautelare, rinviando appunto a quanto aveva anche a suo tempo, a quanto a suo tempo segnalato il primo presidente della Cassazione. Però, come dire, vorrei provocare, se me lo consente, insomma, il ministro, a proposito della, come dire, dell'eccesso di custodia cautelare, così come a proposito dell'aumento che lui ha segnalato della popolazione carceraria all'indomani dell'indulto, il ministro sottovaluta o quantomeno non sembra considerare il fatto che negli ultimi anni la politica si è decisamente orientata nella direzione di un eccesso di carcerizzazione. Cioè, dalla, come dire, legge ex Cirielli in avanti, che ha ridotto moltissimo il ricorso alle misure alternative alla detenzione, ai pacchetti sicurezza che abbiamo avuto negli anni successivi, a leggi particolari come quella sulla violenza sessuale, che poi è stata parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, la politica ha scelto negli ultimi anni la strada della carcerizzazione. Ovviamente questo ha avuto anche delle ricadute inevitabili sulle decisioni poi dei magistrati. Allora, ecco, forse si impone una riflessione a livello politico su questo fronte, perché non si può semplicisticamente, mi consenta di dirlo, dire sì, però le carceri sono state svuotate grazie all'indulto, però poi si sono riempite di nuovo, vuol dire che la gente torna a delinquere, abbiamo un sacco di mascalzoni in giro. No, forse abbiamo anche, sottolineo anche, una politica che vende, diciamo, all'opinione pubblica il carcere come l'unica risposta adeguata, diciamo, per risolvere una serie di problemi che non sempre attengono soltanto la criminalità, ma sono fenomeni sociali più complessi. Ecco, grazie Donatella. Peraltro questo si può aggiungere che ieri abbiamo fatto per esempio una trasmissione che parlava di economia e molti ascoltatori dicevano in galera gli evasori. In questi giorni si sta parlando del nuovo reato di omicidio stradale, proprio perché fa impressione che una persona che uccide quattro persone con la propria automobile non passi nemmeno un'ora in carcere. Allora, ministro, c'è veramente, diciamo, questa pressione dell'opinione pubblica perché è anche politica. Guardi, se mi consente rispondo dalla parte finale del suo intervento. Ho visto che ci sono state diverse polemiche sull'iniziativa del ministro Maroni e mia in ordine all'ipotesi di omicidio stradale. Si è detto che l'ipotesi, il fatto è già previsto nella sua ipotesi aggravata rispetto all'omicidio colposo. Mi permetto di dire a tutti coloro che muovono queste critiche che vi sono altre, che nel passato vi sono state esperienze di questo genere, ogni qualvolta a un fatto si è voluta dare una significazione criminale di maggiore pregnanza. Penso alla corruzione in atti giudiziari, che inizialmente era un'ipotesi aggravata del reato di corruzione. Penso ad esempio al sequestro per scopo di terrorismo, che è un'ipotesi, come dire, se si vuole, aggravata rispetto al sequestro, e che viene assunta a figura autonoma proprio per dare una maggiore significazione criminale. Aggiungo che quando, con riferimento all'omicidio stradale, abbiamo iniziato il ragionamento con il ministro Maroni, abbiamo espressamente parlato dell'introduzione anche per questo reato della flagranza differita, e cioè di uno strumento che, ove fosse stato esistente, avrebbe consentito alla polizia giudiziaria di arrestare l'autore dell'omicidio di Alessandria. Sul punto intendo precisare anche, a tutela dei magistrati, che in quel caso si è trattato di un mancato arresto da parte della polizia per l'assenza della flagranza e non di una successiva scarcerazione o liberazione posta in essere dai magistrati. Venendo invece al contenuto dell'intervento della dottoressa Stasi, vorrei molto rapidamente dire questo. La ringrazio prima di tutto per avere, come dire, contrariamente a quello che normalmente è la produzione giornalistica degli ultimi, è stata la produzione giornalistica degli ultimi anni, affermare che l'approccio che il centrodestra ha avuto verso il mondo della giustizia è stato un approccio duro e rigoroso. Ma al di là di questa piccola polemica che la dottoressa mi consentirà, il problema è molto semplice. Noi abbiamo delle esigenze di sicurezza dei sistemi, abbiamo delle esigenze di sicurezza dei cittadini, quindi tutto si deve muovere a salvaguardia di questa esigenza. Le norme a cui lei faceva, a cui faceva riferimento la dottoressa, sono delle norme che hanno una loro incidenza, penso alla Cirielli, penso al pacchetto sicurezza con tutto il meccanismo delle recidive, che possono avere un'incidenza non sulla restrizione di un detenuto in custodia cautelare, quanto sugli effetti che questi possono avere sulle misure alternative. Queste leggi hanno ormai 5-6 anni, gli uffici del Ministero, i colleghi del Ministero stanno, come dire, compiendo in questi giorni un approfondimento. Nulla è immutabile. Quello che io voglio dire però con estrema chiarezza è che qualsiasi modifica ulteriore rispetto a quello che a noi ci pare in questo momento il necessario dovrà sempre tenere presente l'esigenza di sicurezza dei cittadini. Per il resto, sulla custodia cautelare non incidono più di tanto le misure a cui faceva riferimento la dottoressa Stasi. Mi chiedo, ad esempio, faccio una domanda a me stesso, la formulo a tutti quanti voi: c'è una norma nel codice che consente al pubblico ministero di disporre gli arresti domiciliari invece che la restrizione in carcere nei confronti dell'arrestato in flagranza. Stiamo verificando quante volte questa norma è stata applicata, perché voi comprendete meglio di me come non sia accettabile, anche sul piano organizzativo, a fronte di una emergenza di questo genere, che un soggetto venga arrestato per un reato di scarsa rilevanza, portato in carcere, ivi all'interrogatorio di convalida da parte del giudice, il quale può convalidare l'arresto e liberarlo, e queste sono le 48 ore, ovvero si va in giudizio direttissimo e viene liberato all'esito del giudizio direttissimo, e questi sono i 10 giorni, ovvero il Tribunale della Libertà revoca la misura cautelare o retrocede la misura cautelare, ovvero sono venute meno le esigenze cautelare e viene liberato nello spazio dei 10 ai 30 giorni. Allora mi chiedo se non sia logico approfondire, soffermarsi, ragionare sulla possibilità per i reati di minore gravità rendere cogente l'istituto dell'arresto domiciliare e considerare, come peraltro già è previsto nel codice, assolutamente eccezionale quello della restrizione in carcere. Concludo molto rapidamente: se noi abbiamo 67.000 presenze in carcere, se da queste 67.000 presenze si eliminassero le 20.000 presenze in custodia cautelare, noi ci troveremmo esattamente sulla idoneità carceraria che è fissata a 45.000 posti. Se ne levassimo la metà, e cioè quel 50% che esce dal carcere tra le 48 ore e i 30 giorni, noi ci troveremmo a 57.000, cioè sostanzialmente esattamente al centro tra la forbice minima e la forbice massima di compatibilità carceraria. Grazie, poi gli altri interventi che evidentemente devono riguardare i detenuti in espiazione pena. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di giustizia, stiamo parlando di carceri, di sovraffollamento, dei problemi anche di civiltà che si pongono di fronte a questa situazione delle carceri. Molti messaggi SMS al nostro 349-238-6666, alcuni sottolineano: ma ci sono molte carceri costruite, mezze costruite da completare, se ne parla molto spesso. Altri messaggi dicono: no, non dobbiamo essere clementi, anzi, dice un altro, dice: facciamo lavorare i detenuti per costruire le carceri nuove che servono. Ecco, al di là di questo, io pregherei gli altri ospiti di fare una domanda al ministro Francesco Nitto Palma, che ha avuto la cortesia di essere con noi. Maurizio Tortorella, autore del libro La Gogna, vice direttore di Panorama. Buongiorno ministro, io sono d'accordissimo con lei sul fatto che la custodia cautelare dovrebbe essere più delle volte scontata agli arresti domiciliari, anche perché la giustizia italiana spesso è severissima, quasi sempre severissima prima del giudizio, ma poi diventa estremamente lassista dopo, il giudizio, e quindi c'è un'incongruenza assurda. La domanda che le vorrei fare è questa: 10 anni fa esatti, nel 2001, iniziò una sperimentazione sul famoso braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico è quella, è quella apparecchio tecnologico, lo spiego ai telespettatori, agli ascoltatori che non lo sapessero, che permette il controllo a distanza di un detenuto, spesso esclusivamente agli arresti domiciliari, proprio perché è legato alla sua caviglia o a un'altra parte del corpo, e impedisce quindi l'allontanamento da un ambito fisico ben definito. È uno strumento adottato in tantissimi paesi, in America ultimamente l'abbiamo visto applicato alla vicenda Strauss-Kahn per le note vicende processuali, e in Italia, dicevo, nel 2001 si iniziò una sperimentazione che è costata tantissimo, perché nei 10 anni di applicazione è costata 110 milioni e passa di euro. È stata applicata, a quel che mi risulta, a 2 persone, quindi è stata la più costosa sperimentazione, credo, nella storia dell'umanità. Certo. Ecco, purtroppo il ministro è caduto dalla linea, vediamo di riprenderlo tra poco. Io vorrei sentire, teniamo conto di questa domanda sul braccialetto elettronico da parte di Luisa Dottorella, sentiamo 2 ascoltatori. Enrico da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Senta, io sono un agente di polizia e polizia di Stato. Purtroppo oggigiorno il nostro lavoro è difficile, perché facciamo da cuscinetto tra i cittadini che chiedono giustizia e la giustizia, appunto. E volevo dire che purtroppo un provvedimento del genere aumenterebbe il senso di impunità che già è grande nella criminalità comune, perché purtroppo molti criminali sono consapevoli del fatto che ci sono parecchie scappatoie e parecchie vie d'uscita, e quindi chi è un criminale abituale purtroppo li sfrutta tutti e spesso la fa franca. Quindi lei è contrario all'amnistia, in pratica? Sì, io dal punto di vista mio sono assolutamente contrario. La ringrazio. Andrea da Livorno, buongiorno. Poi un paio di considerazioni molto pratiche. Per fortuna non conosco l'ambiente, per fortuna mia, se non per quello che leggo e che sento dire. Quindi non è né agente né detenuto. No, nel ci senso, non ho mai avuto a che fare. Dunque, molto pratico. Uno, cerchiamo di fare delle modifiche che non siano, diciamo, zucchero come lo zucchero per i bambini, per gli avvocati. Quindi cose poche idee, ma semplici e chiare. Due, è così difficile, e gli extracomunitari non regolari che mandarli a scontare la pena nel loro paese di origine, anche regolari, perché voglio dire, questi che sono qui magari in attesa di un lavoro stabile, di un permesso di soggiorno, non sono assolutamente un razzista, però risolverebbe il 30% delle cose. E due, che i giudici, in caso di emergenza, io lavoro nel privato, quando c'è un'emergenza faccio lo straordinario, lavoro di più, mi impegno se voglio mantenermi posto di lavoro. Ecco, la ringrazio, mi sembra una domanda molto chiara. Io abbiamo ritrovato la linea con il ministro Nitto Palma, riassumo le 2 domande che ci sono state, una da parte di Maurizio Tortorella che chiedeva come mai non si è applicato in pratica il braccialetto elettronico, che peraltro è stato sperimentato in pochissimi casi, e ripeto questa domanda di un nostro ascoltatore: perché non si riesce a far scontare in patria le condanne per gli immigrati, soprattutto extracomunitari. Ministro Nitto Palma. Guardi, per quello che riguarda il braccialetto elettronico ancora non si è arrivata, come dire, a una sperimentazione su larga scala, perché ci sono stati dei problemi tecnici che sono attualmente di nuovo allo studio del Ministero dell'Interno, che ha la competenza specifica sul punto. Per quello che riguarda invece gli extracomunitari, che rappresentano la presenza straniera è pari a circa il 35% della intera presenza carceraria. Salvo che in parte minimale non può usufruire della cosiddetta detenzione domiciliare, perché mancano evidentemente riferimenti familiari o abitativi, ma voglio sul punto dire che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta stipulando delle intese con talune regioni proprio per giungere a una ospitalità alloggiativa che consente di far usufruire anche a una parte di questi extracomunitari i benefici benefici della detenzione domiciliare della cosiddetta svuota carceri. Per il resto, gli accordi di riammissione non esistono evidentemente con tutti i paesi da cui traggono origine i detenuti attualmente presenti in carcere. Il primo atto che io ho compiuto, arrivato al Ministero di Via Renula, è quello di invitare l'Ufficio Relazioni Internazionali ed il consulente diplomatico a percorrere con rapidità la strada per potenziare il sistema dei patti di riammissione con i paesi stranieri, proprio per consentire ai detenuti stranieri che vivono in Italia di poter scontare la loro pena nel paese di origine. Ecco, la ringrazio. C'è una domanda di un nostro ascoltatore, si dice: perché non facciamo come in America e mettiamo la cauzione? La Corte Costituzionale ha già dichiarato l'istituto incostituzionale. La ringrazio, mi serve una risposta secca. Allora mi rivolgo al senatore Luigi Manconi, perché molti messaggi, devo dire il 99%, sono contrari all'amnistia. L'indulto è stata appena fatta e si è visto che comunque poi le carceri sono riempite di nuovo. Il carcere è sicuramente poco educativo, però è sicuramente un deterrente necessario, e così via. Quindi direi che, per quanto può essere significativo, il sondaggio dei nostri sms 349-238-6666 è largamente contrario all'amnistia. Senatore Manconi, si aspetta una reazione di questo tipo? Assolutamente sì. Tre cose rapide. L'amnistia è programmaticamente una misura tampone, come ho detto, è un provvedimento d'eccezione per una situazione di eccezione. Dunque deve semplicemente far calare rapidamente la febbre al malato, perché poi si possa intervenire con terapie di lungo periodo, cioè le riforme di sistema. Voglio ricordare che senza l'indulto del 2006, opportuno, sacrosanto, ed è risultati estremamente positivi sul piano della scarsissima recidiva, voglio ricordare che senza quell'indulto oggi i detenuti supererebbero gli 80.000, cioè saremmo in una condizione che rappresenterebbe una gravissima minaccia per l'ordine pubblico. Ancora due cose mi permetta. La prima è rivolta direttamente al Ministro, ma come una valutazione evidentemente sulla quale c'è un dissenso profondo. Il Ministro molto opportunamente insiste sulla questione della depenalizzazione, della quale io sono sostenitore da sempre, ma che succede? Succede che il governo del quale è entrato a far parte, la maggioranza di cui è un sostenitore, in questi anni ha operato in direzione opposta. Ricordo che fino a due anni fa l'ingresso e il soggiorno irregolare in Italia erano un illecito amministrativo, sono stati trasformati in fattispecie penale, cioè è stato ampliato, ed è solo un esempio, il catalogo delle pene e dei reati. E temo che questa sia tuttora la tendenza. Ultima considerazione: il Ministro giustamente sottolinea, e i suoi ascoltatori lo confermano, qual è l'esigenza di sicurezza che è presente nel corpo sociale, però bisogna anche dire la verità a questa domanda dell'opinione pubblica, rispondere con dati. Allora, la domanda di sicurezza esiste, ma abbiamo ricordato con sufficiente chiarezza che nel corso degli ultimi 20 anni, 1991-2011, quindi due decenni, il numero degli omicidi volontari in Italia è crollato e oggi abbiamo un numero di omicidi volontari ridotto del 70%. E vogliamo ricordare che tutti i reati tendono a ridursi nel nostro paese? Eccoci ritornati a 9 in punto. Il ministro di Grazia e Giustizia Francesco Nitto Palma ha sentito le domande del senatore Manconi sul fronte appunto della tendenza a rendere, a penalizzare più che a depenalizzare, oltre al resto. Ministro. Senz'altro sì. Allora, rispondo rapidamente. Al di là, diciamo, parliamo del dato numerico, la notazione dell'onorevole Manconi circa gli effetti che vi sarebbero ora nell'eventualità in cui non si fosse proceduto all'indulto nel 2006 dimostrano l'urgenza della situazione e l'urgenza di trovare le soluzioni più adeguate. La questione della criminalizzazione dei fatti di minore rilevanza purtroppo è una costante in questo paese, ahimè, da oltre un decennio, direi da oltre un ventennio, e cioè nel momento in cui si è ritenuto, per l'assenza dei meccanismi sanzionatori amministrativi o interni, di percorrere la strada della sanzione penale per cercare di punire, di sanzionare determinati fatti. La condivido e da qui nasce l'esigenza della depenalizzazione. Infine, prendo atto della notazione critica dell'onorevole Manconi in ordine all'ingresso clandestino e quant'altro. Mi permetto di fare un ragionamento molto pratico: se di questi 100 reati che vi sono se ne potessero intanto depenalizzare 90 perché non si trova l'accordo politico sugli ultimi 10, io credo che comunque si raggiungerebbe un risultato estremamente positivo. Infine, come ho già avuto modo di dire nella conferenza stampa che ho tenuto insieme con il dottor Letta a Regina Coeli, il problema del carcere è un problema che non consente delle eccessive divisioni tra il centrodestra e il centrosinistra. Sì, un intervento di natura organica e sistematica non è un intervento di breve periodo, quindi necessita di un'ampia condivisione. Io sono disponibile a qualsiasi confronto, in qualsiasi momento, con chiunque per cercare di arrivare alla soluzione più adeguata, e fin d'ora considererò un piacere, oltre che un onore, potermi incontrare con l'onorevole Manconi per discutere più approfonditamente di questa questione, ricordando per un verso l'esperienza specifica che l'onorevole Manconi ha nel settore e principalmente l'attività che ha svolto quando era sottosegretario al Ministero della Giustizia. La ringrazio per questa sottolineatura. Lei ha sottolineato nei giorni scorsi proprio come sia importante, decisivo, fondamentale arrivare a una visione unitaria, a un accordo unitario su temi appunto come quelli della lotta alla criminalità e della soluzione dei problemi della giustizia. Su questo punto indubbiamente non posso che farle gli auguri di buon lavoro. Io chiederei a Donatella Stasio se vuole approfondire uno di questi temi con il ministro Nitto Palma. Io vorrei fare al ministro una domanda poi che sta a monte di tutto questo ragionamento, che è una domanda appunto sulla sicurezza. Il ministro ha detto giustamente che la sicurezza è un bene assolutamente da tutelare e va tutelato, però ecco, sappiamo bene che il carcere nelle attuali condizioni in cui si trova è un carcere che non produce sicurezza, ma al contrario produce criminalità. Allora ecco, chiedo al ministro, siccome il carcere è un tema estremamente impopolare, lo si capisce anche dalle reazioni dell'opinione pubblica, prima diceva appunto un ascoltatore l'opinione pubblica chiede giustizia, purtroppo spesso l'opinione pubblica chiede galera, senza comprendere appunto che la galera appunto non produce sicurezza. Per produrre sicurezza la galera, il carcere deve essere sensato, non solo deve essere un luogo vivibile, un luogo civile, deve tendere appunto alla rieducazione. Diceva prima il senatore Manconi, ricordava dei dati fondamentali sulla recidiva: il carcere chiuso, in cui si sta 24 ore chiusi in cella, produce il 70% dei recidivi; il carcere aperto, cioè il carcere in cui si dà spazio alle misure alternative alla detenzione, quelle che la legge Cirielli ha viceversa ridotto all'osso, produce soltanto il 20-30% della recidiva. Allora, la politica, il centrodestra, che almeno per una parte ha sbandierato, lo hanno fatto tutti i governi, bisogna dire la verità, ma sicuramente il centrodestra di più, la bandiera della tolleranza zero, è disposto a questo tipo di sfida, cioè a lavorare per far comprendere all'opinione pubblica che perché la sicurezza collettiva si tutela con un carcere diverso, e quindi a rivedere anche appunto le norme sulle misure alternative alla detenzione e quindi sulla ex Cirielli. Ecco, se posso aggiungere, ci sono peraltro esempi anche di carceri diverse, proprio qui vicino a Milano c'è a Bollate un carcere che non è sicuramente un carcere aperto, ma in cui ci sono delle sperimentazioni molto, molto positive. Lo definirei un carcere aperto. Appunto, sull'inserimento progressivo dei detenuti nella società. Esatto. Ministro Nitto Palma. Noi condivido molto delle osservazioni che ha fatto la dottoressa Stasio. Noi dobbiamo essere guidati nel ragionamento dalla nostra Carta Costituzionale, la quale all'articolo 27 parla del fine rieducativo della pena, oltre che evidentemente della fine, come dire, di repressione. Ma il fine rieducativo della pena è nella nostra Costituzione. E noi dobbiamo arrivare a un carcere che realizzi il fine previsto dalla Costituzione. Oggettivamente non mi sento di poter dire che in tutti gli oltre 200 istituti carcerari questo si realizzi. Una delle maggiori cause è il sovraffollamento, su cui noi dobbiamo incidere. Per quello che riguarda i meccanismi della Cirielli, ho già avuto modo di rispondere prima alla dottoressa Stanzio, dicendo che vi è un ragionamento sul punto, fermo restando però l'esigenza di sicurezza dei cittadini. Per il resto è un lavoro estremamente complesso e difficile, di lungo percorso. Vorrei aggiungere a tutte le osservazioni che mi sono state fatte un'ultima: è davvero così arduo immaginare la costruzione di istituti penitenziari a bassa sicurezza, similarmente a quello che accade negli Stati Uniti d'America e in altri paesi del mondo occidentale, e quindi dei carceri sostanzialmente semiaperti, dove vengono allocati detenuti a bassissima pericolosità, invece di continuare a costruire istituti penitenziari secondo gli attuali standard di sicurezza, che sia sotto il profilo del tempo, che sia sotto il profilo dei costi, non mi pare portano acqua al mulino di una rapidissima soluzione, né tantomeno portino acqua al mulino della realizzazione del fine rieducativo previsto nella nostra Costituzione. Mi sembra un obiettivo molto condivisibile. Lascerei un ultimo ascoltatore, Roberta da Modena, se è rapida nel suo intervento. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Sarò rapidissima, io sono una volontaria in carcere, faccio l'insegnante volontario nelle case di lavoro. Nessuno parla delle case di lavoro, che sono una misura di sicurezza detentiva. Quindi tutti ex detenuti, tutti hanno già scontato completamente la pena e viene data dai magistrati, non da tutti i magistrati, quindi già c'è un'ingiustizia di partenza a parità di condizioni. E diciamo che la casa di lavoro sono soltanto 4 in Italia, 2 sono a Modena e a Castelfranco, io lavoro in questa zona. Il problema non è tanto, dice, ho la casa di lavoro, c'è un recupero. Allora, il recupero non c'è, perché il lavoro non c'è, non c'è proprio lavoro. Rieducazione, teoricamente il carcere avrebbe già dovuto rieducare, però ammettendo che la casa di lavoro possa rieducare, non ci sono né i mezzi né i modi per farlo. Ma il problema più grosso è che è chiamato ergastolo bianco, perché alla fine della pena, che viene, chiamiamola pena, anche se è una misura di sicurezza, uno non esce, e esce soltanto se il magistrato di sorveglianza appura di avere, se abbiano le condizioni di casa, lavoro e famiglia. Ora, ex detenuti difficilmente hanno di nuovo lavoro, difficilmente hanno famiglia, e quindi hanno delle proroghe. Quindi c'è chi parte da 2 anni, arriva a 3 anni, arriva a 4 anni. Grazie. Zimboretti, il problema del reinserimento, soprattutto per chi deve scontare delle pene non limitate, ma di alcuni anni, è certamente un problema molto, molto aperto, è un problema sociale che richiede anche degli investimenti. Io ci avviamo un po' alla conclusione, vorrei chiedere ai nostri ospiti un giudizio finale, soprattutto in prospettiva su questa riforma della giustizia, che comunque è uno di quei cantieri aperti che deve rimanere aperto, cercando di fare poi dei passi avanti, soprattutto nell'ottica della civiltà e del rispetto della persona. Maurizio Tortorella, la priorità in questa prospettiva della giustizia, di una giustizia giusta e rispettosa della persona? Se parliamo di carceri, io direi la depenalizzazione di molti reati e, come diceva il Ministro giustamente, l'eliminazione o la soppressione in grandissimi casi, in tantissimi casi, della custodia cautelare. Per quel che mi interessa invece dal punto di vista di garantista e liberale, e l'ho scritto nel libro La Gogna di cui hai parlato, è soprattutto una nuova riforma dell'uso delle intercettazioni. Ma su questo il Ministro... Su questo il discorso sarebbe molto lungo e non lo apriamo, il discorso delle intercettazioni. Manca un minuto alla conclusione, 30 secondi al senatore Luigi Manconi. Non va dimenticato che il sistema di esecuzione della pena è una parte della più complessiva questione della giustizia, è il luogo dove precipitano tutte le iniquità, le incongruenze e le illegalità dell'amministrazione della giustizia. Poi, per una volta, voglio essere ottimista e per una volta dare fiducia a un membro dell'esecutivo e dico che se effettivamente il provvedimento che può ridurre in maniera molto rilevante la custodia cautelare a vantaggio degli arresti domiciliari venisse davvero approvato, e se il provvedimento detto impropriamente svuota carceri davvero venisse approvato, per quel che vale il Ministro della Giustizia avrebbe la mia approvazione. Ministro Nitto Palma, 10 secondi per concludere, purtroppo è caduta la linea anche col Ministro, ma mi sembra che questa conclusione del senatore Manconi apre la porta appunto a una collaborazione anche tra maggioranza e opposizione per affrontare questo tema della giustizia, che è un tema fondamentale per la civiltà italiana. Io ringrazio il Ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma di essere stato con noi, così come ringrazio il senatore Luigi Manconi, che è autore tra gli altri del libro Quando hanno aperto la cella, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, autore del libro La Gogna. Ringrazio Donatella Stasio, giornalista del Sole 24 Ore, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani, non senza aver ringraziato anche Paolo Corleoni in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione.